Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte. Il giovedì tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Danilo Licciardello, direttore artistico della 17ª edizione del Festival delle Terre a Roma, Nuovo Cinema Aquila, dal 21 al 23 maggio 2025, ben trovato. Ciao Federico, ben trovato a te e ben trovati a tutti e tutti. Presentiamolo, cos'è? È organizzato dal Centro Internazionale Crocevia, un'organizzazione non governativa, antifascista nel 58, si occupa di tantissime cose, cioè principalmente tentare di dare rappresentanza politica ai movimenti di produttori di cibo, pescatori, pescatrici, contadini e contadine di tutto il mondo. Fa anche il Festival delle Terre, quest'anno appunto dal 21 al 24 abbiamo 4 giorni, 3 all'Aquila e 1 ai Giardini di Torricola a Capannelle. Quanti sono i titoli presentati in questa edizione? Abbiamo 9 film, 3 incontri e 3 anteprime italiane. L'ingresso è gratuito al cinema, abbiamo mantenuto questa idea. E abbiamo diviso il festival in 3 macrotemi, il mare, l'agroecologia e il cambio climatico. E ci concentriamo anche su quello che succede nell'Africa dell'Ovest. Rispetto al mare abbiamo un'anteprima che si chiama Razzia sull'Atlantique. Quindi andiamo in Senegal principalmente a vedere che fa la grande industria ittica e come danneggia il mare, ma soprattutto anche chi ci lavora e quindi i pescatori di piccola scala, mercoledì 21 maggio. Per fortuna sono anche buone notizie però, quindi proponiamo anche un lavoro che sia appunto The Good Story, un corto questo, 20 minuti, un'esperienza virtuosa. Siamo in questo caso nell'Adriatico, quando la piccola pesca e quando l'assenza si mettono assieme e dimostrano che si può fare, per cui vediamo come si rigenera un'area marina e quali risultati straordinari ci siano. Per cui tornano i pesci e le persone ricominciano a pescare con ottimi risultati per il loro lavoro e la loro vita. La seconda anteprima di Django Life di David Fedele. Questa volta andiamo in Marocco. David ci racconta la storia di un gruppo di rifugiati richiedenti asilo che vengono dal Sudan e Sud Sudan. Fedele l'abbiamo già ospitato più di una volta al nostro festival. Lui fa proprio cinema del reale, sta mesi insieme alle persone, in questo caso appunto per la strada, migranti e rifugiati che stanno per la strada in Marocco aspettando di ottenere lo status appunto di rifugiati. Questo film al 99% lo viene a introdurre David Giambio, è lui che ha denunciato il caso Almastri, quello che con i soldi pubblici il nostro governo appunto ospita un torturatore libico. Sarà tra l'altro lo stesso giorno, giovedì, in cui si parlerà dell'Africa dell'Ovest, quindi facciamo un incontro dal titolo Cosa succede in Sahel, tema di colonizzazione. Ne parleremo con persone d'Africa. Sappiamo che in Africa dell'Ovest dopo secoli i francesi sono stati allontanati, ci sta un'area nuova, abbiamo 3 paesi, Mali, Burkina e Niger, con 3 nuovi governi, e pensiamo sempre che la maniera migliore è chiedere alle persone d'Africa in questo caso. Terza anteprima, ospitiamo il lancio nazionale del Prezzo che paghiamo, un film di Sara Manisera, giovane e bravissima autrice che abbiamo anche già ospitato al festival. Il film lo produce Greenpeace e The Common, hanno scelto con piacere di far partire il tour nazionale da noi. Avremo appunto ospite il direttore di Greenpeace e di The Common, ci racconteranno un po' le malefatte delle multinazionali rispetto alla crisi climatica, cioè ci interrogheremo su chi sono poi i responsabili di questa crisi. È un lavoro d'inchiesta e mette un po' il dito nella piaga e al di là direttamente i responsabili, quindi parliamo di Eni, Exxon Mobil, di Shell, di BBC Petroleum. Le testimonianze sono molto autorevoli, c'è la Gabbanelli che interviene nel lavoro e viene Luca Chianca di Report a partecipare all'incontro. Sempre a tema cambio climatico c'è Romagna Tropicale, le alluvioni in Emilia hanno colpito un po' tutte e tutti noi, così come l'inazione del governo, delle autorità nel poi dare una mano a chi ha subito appunto 200 150 milioni di metri cubi d'acqua tutti insieme. E ricordiamo, appunto, sono andati esondando 23 fiumi, torrenti, abbiamo avuto migliaia di frane e poi si è spenta la luce su tutto questo. Quindi cerchiamo un po' di riaccendere e di capire tutto e tutto insieme. Come mai, chi, perché? Sicuramente mi scordo qualcosa. Eccolo qui, The Giants. In questo caso parliamo di agroecologia. È un film pluripremiato, una superproduzione in questo caso, perché accanto a piccole produzioni ospitiamo anche grandi produzioni. In questo caso è un film di Laurence Villiers e Rachel Anthony. È una versione inedita, perché questo è 112 minuti, in Italia non sono mai passati. È la storia di Bob Brown, diciamo un eroe popolare australiano, è lui che ha fatto sì, insomma, insieme ad altre persone, che si custodissero le foreste primarie dell'Australia e della Tasmania. Lo introduce Giuliano Fanelli, ricercatore botanico, cioè la foresta come soggetto collettivo. Studi dei primi 90, quindi assolutamente nuovi, e ci raccontano come le foreste in realtà sono soggetto collettivo e si aiutano una con l'altra. Anche quest'anno abbiamo il piacere di ospitare le tematiche di genere, quindi una giornata sostanzialmente gestita dalle donne. In questo caso siamo al sabato, il 24, quindi l'ultimo giorno di festival, andiamo via dal Cinema Aquila, ci spostiamo ai Giardini d'Orricola, vicino Capannelle, e lì c'è il libro di Laura Schettini e Simona Feci, L'autodifesa delle donne, pratiche di diritto immaginarie nella nostra storia. Lo presenteranno direttamente le autrici. Sicuramente mi sono scordato qualcosa, Federico, ma invece adesso ne cito qualcun altro. System Change, qui andiamo in Germania e andiamo a vedere che è successo in una foresta enorme tedesca, a Dannenroder. Sono 2000 poliziotti e 200 attivisti, i ragazzi e le ragazze che si sono fatti le casette sugli alberi in Germania, hanno resistito parecchio contro la costruzione dell'autostrada e la distruzione della foresta. È girato insieme a loro, ha vinto un sacco di premi e racconta una storia importante di resistenza e attivismo. A proposito di questo, abbiamo un incontro venerdì alle 7 su quello che sta succedendo pure nella nostra città e sulle lotte ambientaliste, la difesa del parco a Pietrolada, di Casale in Selce, del parco sul biodigestore, il porto, il bilancione. Insomma, il festival dà un'occasione ulteriore di incontro e di confronto su questo. Vigneron, vi dico anche Vigneron, questo è un film incredibile, lo mangiamo sabato 24, Giardini di Torricola. Sono stati necessari 8 anni di riprese per farlo. In questo caso proprio si parla di vino. A Torricola ci saranno botteghe contadine, cibo biologico, ragazzi che hanno scelto di lavorare nell'agricoltura, e quindi abbiamo pensato di chiudere lì con questo film che ci racconta lo spirito di trasmissione di generazione in generazione, ed è girato tra la Francia e le Alpi italiane. Per tutto il programma ci dai riferimenti internet? festivaldelleterre.it o anche sul sito del Centro Internazionale Crocevia, che è crocevia-terra.it, oltre che su Facebook, Instagram, sempre cercate Festival delle Terre. 17ª edizione del Festival delle Terre a Roma, Nuovo Cinema Aquila, dal 21 al 23 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Danilo Licciardello. Alla prossima! Alla prossima, ciao Federico, ciao a tutti e tutte. Con Alex Loprieno di WeShirt, che distribuisce il cortometraggio 154 di Riccardo Copreni e Andrea Sbarbaro, in proiezione a Milano, ad Anteo Palazzo del Cinema, giovedì 22 maggio 2025. Ben trovato. Ciao Federico, grazie di avermi invitato nella tua trasmissione. Cos'è questo lavoro? 154 è un corto di circa 20 minuti che è stato realizzato da due registi veramente molto in gamba, hanno una visione, un'estetica secondo me molto, molto interessante, al passo con i tempi, che mescola un po' il cinema di genere, in questo caso il fantascienza, con un linguaggio anche abbastanza pop, che secondo me piace molto anche ai giovani, e quindi abbiamo deciso di puntare su 154, è una delle WeShort Original, perché ricordo a chi ci ascolta, WeShort è una piattaforma streaming dedicata al cinema breve, e come le streamer fanno anche noi, insomma, abbiamo iniziato a fare produzioni originali, però solo cortometraggi, e quindi questo è uno di quelli dove noi abbiamo puntato fin da subito. Com'è stato il vostro incontro con questo cortometraggio? Questo cortometraggio l'ho conosciuto perché Riccardo e Andrea hanno i loro precedenti lavori su Wishsoft, e quindi quando noi conosciamo un regista, un filmmaker, un produttore e hanno già i loro corti sulla piattaforma, per effetto community sicuramente ci arrivano, perché quando loro stanno già lavorando sul nuovo progetto ce ne cominciano a parlare. Quindi la cosa bella è che noi vedremo sempre delle Wishsoft Original che appartengono a degli autori che già fanno parte della nostra community di filmmaker che hanno i costi sulla piattaforma, quindi è anche un po' nel nome stesso dell'azienda Wishsoft, che significa appunto una community, significa espandere la rete del mondo dei costi in maniera veramente ampia e importante. Un interprete poi d'eccezione per quanto riguarda questo cortometraggio? Sicuramente fa riferimento a Giovanni, ma io aggiungo anche una interprete, perché la voce femminile di questo algoritmo, di questo prototipo, di 54, è interpretato da Giulia Bellu, che è comunque un'attrice e content creator abbastanza importante nel panorama italiano, soprattutto tra i giovani, ma chiaramente Giovanni è un'icona. Io sono contentissimo che Giovanni abbia dato la disponibilità per realizzare questo corto. Non era estraneo al mondo dei corti, perché abbiamo un altro corto con Giovanni Sorgi, si chiama Magic House, già presente sulla piattaforma, e la cosa molto bella è vedere da attori che sicuramente non hanno bisogno di fama in più, ma sicuramente aiutano dei registi a emergere, perché sicuramente grazie a Giovanni questo corso acquisisce un quid importante, quindi è doveroso ringraziare attori come Giovanni che insomma decidono di lavorare con giovani autori anche su ruoli inediti, no? Perché noi vediamo Giovanni in un ruolo drammatico, in un film di fantascienza, è veramente molto emozionante, soprattutto per me in primis, parlo in questo caso come cinefilo, non come founder di Wishsoft, perché comunque avendo sempre visto Giovanni in un ruolo comico nella commedia, insomma ha fatto la storia con il film di Giovanni Giacomo, vederlo in questo corto qua è veramente molto emozionante, ci fa capire quanto il corto riesca a portare alla luce un lato di un attore anche molto molto bello che noi non conoscevamo ancora. Spieghiamo a chi ci ascolta il senso di questo titolo. 154 è il numero del prototipo, quindi voleva probabilmente essere un titolo che è un po' di provocazione, no? Nel fatto che comunque noi ormai siamo al limite dell'essere definiti dei numeri, e quindi magari siccome il cortometraggio narra il rapporto uomo-macchina, quindi uomo-intelligenza artificiale, il numero è probabilmente un sinonimo di cosa possiamo diventare, se possiamo diventare dei numeri oppure magari riusciamo a mantenere la nostra umanità. Io credo che il corto non dia delle risposte, ma che sicuramente possa accendere e risvegliare delle riflessioni. Voi vi occupate nello specifico di cortometraggi, che tipo di fruizione stanno avendo i cortometraggi? All'inizio, quando siamo partiti, tutti quanti mi chiedevano: Alex, ma chi li guarderà i corti? Ma non c'è mercato, con i corti non si fanno soldi, eccetera, eccetera. Oggi possiamo dire che i cortometraggi da Wishsoft li hanno visti 3 milioni di persone in tutto il mondo, molti anche in Italia. Abbiamo portato i cortometraggi nella vita delle persone in maniera più strutturata e sicuramente siamo solamente all'inizio di un percorso. È stata una fase di start-up sicuramente difficile, perché comunque quando crei qualcosa da zero, dovendo anche esacerbare delle credenze limitanti di persone che lavorano anche nel settore, sicuramente la strada è un po' più in salita, però come tutte le storie belle è giusto che sia così. Quindi posso dirti che milioni di persone guardano i cortometraggi in tutto il mondo, milioni di persone stanno iniziando a guardarli con Wishsoft, e questo definisce sicuramente un mercato che prima non aveva confini e che non aveva anche una misurazione. Oggi questa misurazione la stiamo dando e stiamo anche influenzando delle scelte di produzione grazie alla distribuzione. Ti dai riferimenti internet per saperne di più? Più che per saperne di più, per guardare di più, quindi wishsoft.com, le app iOS e Android, a breve le app Smart TV saranno lanciate sulle principali piattaforme di Smart TV. Il cortometraggio 154 di Riccardo Copreni e Andrea Sbarbaro, in proiezione a Milano, all'Anteo Palazzo del Cinema, giovedì 22 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento ad Alex Loprieno di Wishsoft, che lo distribuisce. Alla prossima! Grazie a te Federico, alla prossima, ci vediamo all'Anteo. con Aurelio Grimaldi, regista del film Rachmar, al cinema da giovedì 15 maggio 2025. Ben trovato. Grazie per l'invito, buongiorno a voi. Raccontiamo questo film, di cosa si parla? È la storia di Sham, un ragazzo di 19 anni che vive nel Marocco, ma proprio all'inizio del Sahara, dopo le montagne dell'Atlanta, il confine con l'Algeria, dove viene a sapere che verrà una signora per assumere 4 ragazzi per un lavoro molto ben retribuito, ma molto impegnativo e che potrebbe riguardare anche le notti in Europa. E lui partecipa a questa selezione, viene scelto e viene a scoprire che con uno stipendio francamente altissimo per i livelli marocchini, questa azienda offre il corrispettivo di 600 euro al mese alla famiglia, direttamente ai genitori, e 1800 fissi a lui. Se calcolate che in Marocco un insegnante statale prende 150 euro il corrispettivo, però si tratta di andare a fare il prostituto di altissimo livello per clienti in maggioranza maschi, ma anche clienti donne a Genova in Italia, e lui accetta senza molti dubbi. Il contratto dura due anni, non deve prendere i barconi per arrivare in Europa, ma un biglietto aereo accompagnato con gli altri 3 ragazzi in business class. Comincia questo lavoro e a un certo punto però un incontro con un cliente che è Leo Gullotta gli fa balenare l'idea di poter lasciare questo lavoro e di andare a Roma, e le cose si complicheranno. Come nasce il progetto? Nasce da una mia lettura da cittadino, giuro che all'inizio non pensavo proprio di poterne fare un film, in una rivista internazionale durante un mio volo ultraoceanico in Australia per motivi di lavoro, e lì trovo questo reportage di una società canadese che racconta esattamente quello che racconto nel film, quindi questa società che recluta i ragazzi di etnia non caucasica, non bianca, per un catalogo online di questa azienda che però offre ai propri ricchi clienti, uomini e donne, un servizio complessivo se lo vogliono, quindi non solo la compagnia di questi ragazzi, può essere di nero africano, magrebino, orientale, brasiliano, insomma tutte le possibilità umane. Però la cosa che mi colpì non è tanto la prostituzione. Io, uno dei miei film più antichi è Le Buttane, mi sono sempre occupato di prostituzione, un po' una fissazione. Quello che mi colpì era che questa società canadese, come nel nostro caso la nostra, gestita da Giuliana De Sio e da Alessio Vassallo, attori ovviamente, e si vantava e si vanta di offrire una possibilità straordinaria per questi ragazzi, che erano liberi di accettare oppure no, quindi non si tratta di una tratta, diciamo così, venite a fare un bel lavoro in Europa, appena arrivate vi costringiamo a prostituirvi, no, niente di tutto questo, vi paghiamo benissimo, vi vestiamo firmato e vivrete nel nostro bellissimo residence per 2 anni, tutto garantito. Dopo i 2 anni di contratto, se volete restare in Italia, come in quel caso nel Canada, noi vi facciamo avere un permesso di soggiorno permanente. Su cosa hai voluto incentrare il film? È la storia di questo ragazzo, lo vediamo già in Marocco quando viene reclutato con altri 3 ragazzi, scelto, preferito tra tanti altri che si candidano, e ripeto, all'inizio loro sanno soltanto che un lavoro in Europa, sanno le cifre di retribuzione, poi una volta prescelti vengono informati, e quindi racconto una storia. Ma quello che mi colpisce come italiano, cioè come persona che ha avuto la fortuna di nascere in una zona benestante del paese, di etnia privilegiata e di tutti i privilegi che noi abbiamo senza rendercene conto, questa ipocrisia la chiamo io del capitalismo, del nostro benessere, per cui arrivare a proporre questa a dei ragazzi che non possono dire di no, perché io al posto di Hisham avrei fatto la stessa cosa, dal quasi deserto del Sahara, Minsica, a andare in Europa che uno vede come un paradiso, in Europa occidentale, dal proprio cellulare, non si può fare altro. Ho fatto il paragone in altre interviste, scusa se mi ripeto, con Pasolini, che ho raccontato in alcuni miei film, Nel bene e nel male, dico io, che faceva la stessa cosa tanti anni fa con i suoi ragazzi, sceglieva ragazzi proletari delle periferie di Roma, ma alcuni marocchini dello Yemen durante i suoi viaggi in Anatolia, e faceva una proposta molto simile: sono un regista e se mi fai un po' di compagnia ti faccio fare l'attore e ti porto a mangiare in bellissimi ristoranti, sto andando 3 giorni a Parigi e cerco qualcuno che mi faccia compagnia, e ti va, e ovviamente tutti erano liberi di rispondere no, ma praticamente tutti rispondevano di sì. Come hai scelto il tuo cast e com'è stato il lavoro con attori ed attrici? Mehdi, il ragazzo che fa Hisham, l'abbiamo scelto con Provini, l'abbiamo cercato a Genova tra tanti ragazzi appunto non di origine italiana, europea, che fanno comunque poi il gruppone di questi ragazzi. Non l'abbiamo trovato a Genova e poi abbiamo trovato questo ragazzo tramite agenzia che vive a Milano, nei dintorni. Poi ho lavorato con Alessio Vassallo e Leo Gullotta, che con me avevano già lavorato, quindi io tendo poi a fare amicizia con gli attori con cui mi trovo bene. Con Giuliana Alessio ci eravamo sentiti anni e anni fa, lei mi aveva fatto sapere tramite Marina Confalone che le sarebbe piaciuto lavorare con me, ma poi ci siamo persi e le ho fatto questa proposta, sai, ruoli difficili per tutti e tre questi attori conosciuti, perché si tratta una di fare la maîtresse, la proprietaria, Giuliana Alessio, Alessio il suo braccio destro, Alessio Vassallo, Leo Gullotta, un signore di una certa età, sposato con tre figli, industriale di Roma, che si trova per un weekend lungo a Genova e affitta il nostro ragazzo. Hanno accettato tutti, il film ovviamente è un film indipendente, girato con i mezzi che potevamo permetterci, non siamo dei blockbuster, comunque al solito credo che siano state delle riprese molto riuscite, umanamente vissute, tutti e tre loro, questi tre grossi nomi del cinema italiano, sono stati felici di accettare un ruolo un po' complicato perché pensavano che questa storia andasse raccontata. Dei riferimenti internet per sapere dove andare a vederlo? Io sono negato su internet, però l'unica cosa che ho Facebook, dove lì tartasso i miei quasi 5.000 amici, tutti che si sono presentati, spiegando loro dove si trova il film. Siamo una piccola distribuzione e la settimana del 15 eravamo in 9 città, adesso se ne aggiungerà qualcuna e qualcuna la perderemo. Sul Facebook Aurelio Grimaldi trovate tutto. Il film Rachmar al cinema da giovedì 15 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Aurelio Grimaldi. Molte grazie a voi, alla prossima, grazie. Con l'attrice Susi Del Giudice per presentare il film Nero di Giovanni Esposito al cinema da giovedì 15 maggio 2025, ben trovata. Ben trovati, grazie, grazie. Qual è il racconto di questo film? È talmente bello che qualsiasi cosa io possa dire, vabbè, sono di parte, però credetemi, è proprio un piccolo gioiello, per cui insomma ci tengo affinché si sappia poco, ma si vada in tanti a vederlo, perché veramente è emozionante andarlo a vedere. Le parole servono veramente a poco. È la storia di un poveraccio, di un ultimo, che pur di portare avanti questa sorella, insomma, che vive con lui, una sorella a cui lui ci tiene in maniera particolare, e si inventa qualsiasi lavoro, anche fare le rapine, e spesso queste rapine vanno male, tant'è vero che proprio una delle prime scene, la primissima scena, si vede lui che durante una rapina, per involontariamente, che va male, involontariamente scappa un colpo di pistola, pensa di aver ammazzato questa persona durante questa rapina e lo tocca per paura, inconsapevolmente scappa via, ma questa persona per miracolo non muore, anzi si alza, per cui poi si scopre che nel momento in cui qualcuno sta per morire, inevitabilmente con il tocco di quest'uomo parebbe soprannominato Nero, si rialza, ma contemporaneamente a questo miracolo che avviene, Nero perde un senso. Capirete, i sensi sono 5, per cui dove si va a finire? Difficile parlarne, così facile vederlo, entrare in questo gioco meraviglioso. Come sei entrata in questo progetto? Intanto perché Giovanni Esposito è mio marito, per cui conoscendoci, siamo insieme da circa 30 anni, evidentemente ha pensato che potessi avvicinarmi a questo personaggio molto delicato. Io appunto sono la sorella, la coprotagonista con lui, e questa sorella che è affetta da questo ritardo prestazionale, questo ritardo mentale. Mi piace parlare di questo personaggio in punta di piedi, perché essendo un personaggio molto delicato mi sono avvicinata veramente con tanta delicatezza e con tanta paura, anche perché non è facile, insomma, interpretare per circa un'ora e mezzo un personaggio senza parlare. Infatti ero molto preoccupata. Giovanni è stato accanto per tutto il tempo, prima, durante e anche dopo, sinceramente, perché un po' si può perdere, insomma, si entra in una follia, però mi sono fatta aiutare da una specialista, la dottoressa Alessandra Borghese, che lavora con queste persone autistiche, per cui insomma con loro ho portato avanti questo sogno di Giovanni, di mio marito. Cosa ti aveva convinto della sceneggiatura? Qui parliamo di qualcosa di diverso, di qualcosa forse poco visto ancora, per cui si denuncia con questa sceneggiatura qualcosa che spesso non si fa, per paura, per poco coraggio. Mi ha convinto il coraggio, ecco, che hanno avuto Giovanni Esposito, sceneggiatore nonché protagonista e anche ovviamente regista del film, con l'altro sceneggiatore, Francesco Prisco. Mi ha convinto il loro coraggio, la voglia di poter portare al cinema qualcosa, ti ripeto, di non visto ma sicuramente di coraggioso. Si parla di ultimi, si parla di sacrificio, si parla di qualcosa di importante, e in un periodo così delicato in cui stiamo vivendo, mi permetto di dire che se ognuno di noi riuscisse poco a fare un piccolo sacrificio, si potrebbe campare veramente tutti in maniera migliore. Che uscita sarà? In quante sale? Le sale al momento, se tutto va bene, saranno 30 in tutta Italia. Sono poche, anche perché è un film, tra virgolette, molto piccolo. Ci hanno aiutato tre produzioni importanti: la Rana Film, la Ripeto Produzione e la Bart, insomma, la figura di Massimo Di Rocco. Ovviamente hanno creduto, ma capirai, il cinema in questo periodo ha difficoltà, per cui con le loro forze, anche se non enormi, hanno voluto partecipare. Per cui al momento 30 sale in tutta Italia. Anche questo sembra un miracolo, credimi. Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove andare a vederlo? I nostri social, con i social insomma della produzione, assolutamente sono attivissimi. I social veramente vi aiuteranno tanto, della nostra produzione, sui miei social, su Il Giudice e ovviamente sui social di Giovanni Esposito. Il film Nero di Giovanni Esposito al cinema da giovedì 15 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Susi Del Giudice. Alla prossima! Grazie a voi, a presto! Con Michael Petrolini e Marco Bergonzi per presentare il loro documentario Honeydew al cinema da lunedì 12 maggio 2025. Ben trovati. Grazie. Di cosa si tratta? Honeydew è una comunità che vive nel nord della California ed è un luogo sperduto in mezzo ai boschi, dove per anni hanno coltivato queste persone che si sono ritrovate lì sin dagli anni 60 e marijuana in modo illegale. Poi dopo dal 2016, quando è arrivata la legalizzazione a uso ricreativo, si sono scombussolati gli equilibri di questa comunità. Come nasce questo lavoro? Nasce da un'esperienza personale che io e Mike abbiamo fatto quando eravamo ventenni, e ci siamo trovati anche noi coinvolti in un certo modo all'interno di Honeydew come lavoratori stagionali. Cioè, ci siamo trovati là a lavorare, poi a un certo punto la scintilla ha fatto scattare un po' l'idea di una storia, proprio il fatto che arrivava una giornalista di National Geographic, cercava di fare un reportage, non ci riuscì, e lì capimmo che noi eravamo già riusciti a entrare in questa società, a guadagnare la loro fiducia, e forse potevamo provare a raccontare noi queste storie. Poi da lì sono passati anni prima che siamo realmente riusciti a realizzare. Come l'avete strutturato il documentario? Di base siamo partiti nel 2017 circa a fare le riprese, facevamo delle riprese molto di ricerca sul luogo, tant'è che infatti non avevamo mai ripreso i volti, visto che comunque le persone erano ancora un po' scettiche nel farsi riprendere, per poi dopo arrivare nel 2019 con un crowdfunding che abbiamo fatto noi, e con il quale siamo riusciti a tirar su quasi 10.000 euro, e siamo partiti così nel 2019 a fare il primo giro di riprese. E abbiamo fatto circa un mese e mezzo, poi abbiamo raccolto abbastanza materiale per fare un teaser da presentare a vari pitch, e siamo stati selezionati a IDS, dove con Indica abbiamo iniziato un percorso di scrittura più concreto su quello che è il documentario. È un documentario d'osservazione ibrido con interviste, dove in pratica inizialmente c'è un setup della storia che ti fa conoscere i personaggi chiave e quindi ti dà un inizio per capire come si svolgerà il film, per poi dopo lasciarsi andare e entrare un po' più nel concreto e nell'osservazione partecipante. L'abbiamo cercato di gestire in questo modo anche perché comunque, avendo fatto 4 anni di riprese, in 4 anni siamo evoluti anche noi con il modo di regia, e quindi diciamo che ci siamo un po' adattati anche alle modalità che avevamo fatto di riprese negli anni. Quante persone vivono questa esperienza e com'è stata il rapporto con loro? Onigio è un villaggio piuttosto piccolo, ci saranno un centinaio di abitanti. Durante l'anno però ci sono momenti, le stagioni appunto, dove arrivano molte persone esterne che cambiano un pochettino la vita nel villaggio, la rendono più animata. Il rapporto con loro è stato non semplicissimo dal principio, perché non erano persone abituate a essere davanti a una telecamera e a raccontarsi. Però il personaggio principale che ci ha aiutati a entrare nella comunità è Maureen, e grazie alla sua fiducia siamo riusciti pian piano a conoscere tutti quanti e diventare loro amici anche, insomma. Come funziona la comunità e che rapporto ha con l'esterno? Si sono dati negli anni una sorta di regole interne, hanno trovato un equilibrio negli anni che ha fatto sì che si costruisse una sorta di villaggio autonomo, con appunto anche una scuola, un post office, un piccolo store e pompieri. Quindi hanno creato proprio un luogo dove in un qualche modo riuscissero ad avere tutti i servizi che gli servivano. E tra di loro c'è un rapporto strano, perché comunque è nata come una comunità che magari appunto negli anni 70-80 era molto più quel concetto di comunità che abbiamo, un po' hippie, dove tutti vanno insieme a fare cose in posti comuni eccetera, ma che poi negli anni è andata a disgregarsi, perché comunque rimane il fatto che sei in America, dove la proprietà privata è prima di tutto, quindi ognuno di loro ha il proprio posto, e poi c'è il vicino di casa che magari sta a 30 minuti di macchina, con il quale ha dei rapporti più conviviali che altro, anche perché loro hanno portato avanti questa battaglia comune, che era quella di rimanere nascosti dal governo. Però è una comunità variegata, ci vivono i redneck come gli hippie, quindi metti insieme due realtà che anche a livello ideologico sono agli antipodi, però che hanno dovuto convivere per tutti questi anni perché avevano un po' il nemico comune, che era il governo. Che circuitazione avrà il lavoro? In Italia dal 12 maggio iniziamo a portarlo al cinema, La questione principale è l'estero. Ha fatto già dei festival importanti, è stato presentato in anteprima al Festival dei Popoli, dove aveva vinto anche un premio. Poi è stato presentato al Thessaloniki Festival e al Santa Barbara International Festival, e quindi diciamo che all'estero sta iniziando a fare un percorso festivaliero anche importante, e adesso in Italia invece sta iniziando nel circuito cinema. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Su Indica, la casa di produzione. Il documentario Honeydew al cinema da lunedì 12 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento ai registi Michael Petrolini e Marco Bergonzi. Alla prossima! Grazie, alla prossima! Con Roberto Gasparro, regista del film Chi sono io, al cinema da giovedì 8 maggio 2025. Ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno ai tuoi ascoltatori. Cosa hai raccontato? Ma ho aperto una finestra sulla società attuale, a 100 anni da Uno, Nessuno e 100.000, di Luigi Pirandello, che è uscito nel 1926, e mi sono interrogato se 100 anni dopo quella società descritta da Pirandello, descritta anche da Sorrentino nella Grande Bellezza, un po' decaduta, fosse ancora rimasta decaduta. Io ho voluto aggiungere anche un altro aggettivo, l'ho trovata anche un po' perversa, questa nostra società. E quindi all'interno di una rivisitazione di Uno, Nessuno e 100.000 presento Chi sono io. Ci dai qualche indicazione di trama? Ma una famiglia si ritroverà a fare conti con i propri segreti e con le proprie bugie. E quindi penso che oggi segreti e bugie siano all'ordine del giorno di qualsiasi livello della nostra società. Come nasce tutto? Nasce leggendo un articolo su delle ragazze che mercificavano il loro corpo su OnlyFans e che guadagnano un mucchio di soldi ogni mese mostrando piedi, facendosi degli shampoo in diretta, mostrando i gomiti, e quindi da quelle cifre che incassano tutti i mesi, sono giovani ragazzi, mi sono chiesto: ok, ma chi c'è dietro che paga queste somme? e dietro ho scoperto un mondo, una società di persone insospettabili, quindi da padri di famiglie, da notai, da avvocati, professionisti, operai, insomma tutta la società. E allora ho detto, ma approfondisco questo lato della società, e infatti le protagoniste del film Chi sono io sono due ragazze che hanno un profilo OnlyFans di nascosto, ovviamente all'insaputa dei propri genitori. Come hai scelto il tuo cast e come è stato il lavoro con loro? Sono tutti attori che collaborano con me ormai da diverso tempo. Vittoria Chiolero, che è la protagonista femminile, è già il suo terzo film con me. L'ho scoperta io quando aveva 16 anni, quindi per me è una certezza. E poi attori come Tony Sperandeo, Massimiliano Rossi o Max Cavallari, abbiamo già avuto in passato modo di collaborare, ci siamo trovati bene insieme e hanno accettato di fare questo film che è molto particolare, perché ognuno di loro, ha tolto Sperandeo che fa il parroco, ma Max Cavallari, per esempio, e Giampiero Perone fanno le parti di alcuni pervertiti e mettono in scena alcune parafilie tipiche delle persone che si staccano su OnlyFans, ecco. Il primo riferimento che ci hai dato è Uno Nessuno 100.000 di Pirandello, ecco, su quali elementi ti sei voluto centrare? Sul fatto che i nostri personaggi nel film hanno una visione completamente diversa di se stessi e della società, esattamente come succede nel protagonista di Uno Nessuno e 100.000, il signor Moscarda, che si accorge di avere il naso storto solo dopo che sua moglie glielo dice, perché lui si guardava tutti i giorni allo specchio ma non aveva notato questa cosa, quindi si è iniziato a interrogare, ma allora gli altri mi vedono col naso storto? È iniziato a fare un viaggio dentro se stesso, e i nostri personaggi faranno lo stesso. Loro si sentono immuni da qualsiasi errore, da qualsiasi bugia che dicono, ma invece non sanno che gli altri vedono qualcosa di loro che loro non sanno. Un po' contorto forse da spiegare, però da vedere sarà molto più semplice. Allora, il film è uscito l'8 maggio, i primi riscontri in sala? Noi facciamo eventi, siamo una piccola casa di produzione, anche se io sono arrivato al sesto film ormai, e quindi per noi sono tutti eventi, ci piace incontrare il pubblico. Questa settimana per 7 giorni consecutivi saremo al Cinema Dream Multisala di Frosinone con 10 eventi, e contemporaneamente saremo a Giaveno, in provincia di Torino, e poi dalla prossima settimana gireremo un po' in tour fino a luglio, lo porteremo nelle piazze un po' a modello di nuovo cinema paradiso, ed è una cosa che noi facciamo spesso con i nostri film. A questo proposito, ci sono dei riferimenti internet per sapere dove andare? Sul nostro sito 35 mm produzioni SRL c'è la programmazione, ci sono le date degli eventi e poi ovviamente anche sui nostri canali social. Roberto Gasparro, regista. Il film Chi sono io al cinema da giovedì 8 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Roberto Gasparro. Grazie. Con Salvo Campisano, regista del film Il Capo del Mondo, al cinema da venerdì 23 maggio 2025, ben trovato. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori. Cos'è questo film? Cosa racconta? Ma diciamo che è un film un po' particolare, una commedia definirei corrosiva, dal tono un po' grottesco, e poi anche aggiungerei politicamente scorretto. È una commedia che insomma affronta temi sociali, culturali, e lo fa con una certa ironia, è uno spirito anche aggiungerei dissacrante. Tra l'altro è ambientata in Sicilia, io sono siciliano della provincia di Catania, ed è ambientata nella mia terra che io amo tantissimo, ed è una terra che purtroppo è sempre in bilico tra bellezza e contraddizioni. È racconta di un regista che è costretto a girare un'opera gradita sotto la minaccia della criminalità organizzata proprio qui nella provincia catanese. È una sorta di film nel film, in realtà, perché diciamo che mette a nudo un po' le dinamiche sia del cinema, ma del cinema in un ambiente in cui si muovono delle dinamiche un po' oscure per quello che è il mondo culturale, perché ci sono ricatti, discriminazioni e stereotipi in certi ambienti. Ecco, questa è un po' la sintesi. Come nasce tutto? Nasce da, diciamo, dalla necessità di esprimere. Io per 20 anni ho cercato di realizzare delle opere cinematografiche qui, proprio in questa terra, come dicevo prima, in Sicilia, e mi sono dovuto spesso scontrare con la difficoltà di potermi esprimere, diciamo, liberamente o completamente, perché purtroppo troppo spesso qui in Sicilia magari chi non è più bravo viene favorito, chi non è onesto ottiene il massimo rispetto, chi non è sensibile consegue tutto ciò che vuole, per cui soffrendo un po' tutto questo per molti anni ho deciso di raccontare un po' quello che è successo a me e di farlo attraverso quello che è il genere del mockumentary. Su quale tematiche hai voluto puntare? Ma la tematica sicuramente è un film di denuncia. Io l'ho rivestito di commedia, ma vuole puntare a denunciare quelle che sono le circostanze che rendono vita difficile a un artista oggi in Sicilia. Quindi la mia necessità era far capire che chi possiede un talento in Sicilia, ma penso questo accada anche in altre parti d'Italia, se non ha la possibilità di esprimerlo perché ci sono di mezzo interventi, diciamo così, di persone che non colgono quello che è l'essenza dell'arte. Io credo profondamente che un'opera d'arte sia capace di trasmettere amore, verità e bellezza, e che questo possa far crescere quello che è l'animo umano e risvegliare le coscienze di tutti noi. Come hai scelto attori ed attrici e com'è stato il lavoro con loro? Ecco, questa è una cosa un po' particolare perché essendo un mockumentary desideravo che fosse tutto molto realistico e per questo ho scelto degli attori di teatro principalmente su cui ho dovuto lavorare per smontare quello che era la loro preparazione. Provenendo dal teatro avevano un'impostazione magari vocale, del respiro che poteva anche rendere un po' finto il mockumentary, la scelta di girare come un backstage, un dietro le quinte, per cui dovevano essere quanto più naturali possibile. Quindi abbiamo dovuto lavorare su questo fatto di smontare proprio la recitazione, portarla alla realtà, e mi sono servito anche di una tecnica che è la piano sequenza. Ogni scena è girato in piano sequenza. Altra cosa che ha complicato un po' quelle che erano le riprese, perché di conseguenza è difficoltoso sia tecnicamente ma anche per gli attori, perché non possono sbagliare, o comunque bisogna ripetere l'intera scena dall'inizio se magari c'è un errore. Che tipo di uscita sarà? Come dice, scusi? Che tipo di uscita sarà? Ah, ecco, abbiamo pensato di uscire il 23 maggio in sala a Catania, perché è la giornata della legalità. All'inizio speravamo di riempire una sala, invece in poche ore c'è stato un clamoroso tutto esaurito, perché abbiamo fatto sold out di una sala da 500 posti e subito dopo, in due giorni, ne abbiamo riempito un'altra da 300, abbiamo chiesto al cinema di Cinestar dei Portali, di Sant'Antonio Punta, un'altra sala, abbiamo riempito anche quell'altra da 300 e quindi devo dire che non ci aspettavamo questo clamore, questa attesa per il film, tant'è che anche altre sale d'Italia come a Pescara e a Urbino hanno scelto di mandare in onda il film il 23 maggio. E poi, non avendo ricevuto, diciamo, finanziamenti pubblici ed essendo quindi in grado di poter decidere liberamente sul destino della nostra opera, subito dopo andrà direttamente in piattaforma su Amazon Prime e su tutte le altre, diciamo, piattaforme. La scelta del titolo? La scelta del titolo, diciamo che è correlata al personaggio principale, protagonista, perché fa capire come a volte le persone che si sentono migliori, in realtà pensano di poter decidere per tutti e di essere veramente non solo il capo di una comunità, ma addirittura di elevarsi al capo di tutto il mondo. E quindi è un film che racconta proprio, è quasi una presa in giro di quello che può essere un capo di un'organizzazione criminale. Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove andare a vederlo? Sì, c'è una pagina Instagram che è il capo del mondo _ il film, e poi insomma c'è Green Film e Gego Film Production che sono i produttori del film, che comunque attraverso le loro pagine stanno pubblicizzando l'opera. Il film Il Capo del Mondo al cinema da venerdì 23 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Salvo Campisano. Alla prossima! Grazie a voi, grazie, saluto a tutti. Con Aureliano Amadei, regista del documentario I Nipoti dei Fiori, in programmazione a Roma al Nuovo Cinema Aquila lunedì 26 maggio 2025 con un incontro con il regista. Ben trovato. Ciao, ben trovati a voi. Cos'è questo lavoro? Allora, questo è un documentario che racconta la generazione hippie e gli anni 70 più in generale da una prospettiva molto particolare, cioè dai figli dei fiori, quindi i nipoti dei fiori, che all'epoca avevano 4 anni, 5 anni, erano bambini, e che sono stati trascinati in queste avventure incredibili che ci sono state raccontate più volte dal punto di vista degli hippie stessi, ma mai dal punto di vista dei figli degli hippie, che non avevano scelto di essere hippie ma lo erano di fatto. Come nasce questo documentario? Beh, nasce innanzitutto dall'esperienza personale. Io sono cresciuto in una famiglia hippie, ho trascorso più tempo in Asia che in Italia quando ero bambino. Questa cosa ha creato in me tutta una serie di reazioni che passano per l'imbarazzo, la vergogna, l'essere, il sentirsi inadatti a determinate alla vita di tutti gli altri, e poi però passano anche per l'orgoglio della diversità, della stranezza, e quindi poi il film è una sorta di continua lotta fra stranezza e normalità, che poi si riflette nella mia genitorialità, nella mia genitorialità e in quella degli intervistati, delle altre persone che hanno partecipato, e quindi la riflessione finale è: che genitore sei? Come fai a dire i no, i famosi no ai propri figli nel momento in cui sei cresciuto a piedi scalzi su una spiaggia di Bahia? Come lo hai strutturato? Allora, è strutturato con una larga parte di interviste che però sono state condotte in una maniera un po' particolare. Essendo io uno dei nipoti dei fiori, non ho mai fatto il personaggio intervistante, bensì sono dei dialoghi quasi tipo talk show, insomma. Io mi siedo con i vari personaggi e tiro fuori anche io cose della mia infanzia, stimolandoli a tirare fuori ricordi e aneddoti della loro infanzia. Il tutto è incorniciato con o qualche immagine d'archivio dei repertori originali, spesso inediti perché li ho avuti dalle famiglie stesse, insomma sono archivi familiari degli stessi personaggi, e una sorta di racconto che motiva un po' questa ricerca, che è proprio una specie di grotta in cui io mi infilo e affronto i miei demoni un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie in un passaggio di età. Nel suo caso era quello dall'infanzia all'adolescenza, nel mio caso è un passaggio di età nel momento in cui i miei figli stanno diventando adolescenti, e quindi affronto tutte le difficoltà che affrontano tutti oggi nell'avere dei figli adolescenti e nel vederli in questo mondo. Quante persone hai incontrato per inserirli nel documentario, e che ritratto, che mosaico ne viene fuori? Allora, io ho incontrato tantissime persone, purtroppo non tutte sono finite nel montaggio finale, ma ho parlato con più di 30 persone di tutta Italia, Ce ne sono 15 nel montaggio finale e ne viene fuori un ritratto intanto di persone più risolte di quanto non si possa credere. Quindi è divertente sentire questi aneddoti pazzeschi, ma veramente pazzeschi. Insomma, ci sono persone che hanno vissuto da bambini cose inimmaginabili. E poi però raccontati da tutti i ragazzi che hanno fatto molto bene i conti con la loro storia, con il loro posto nel mondo e con la loro creatività. Ecco, spesso hanno a che fare con il mondo dell'arte, spesso sono dei creativi, però persone che si sono anche molto adattate, siamo per forza di cose cresciuti molto adattabili, insomma, e quindi tutta gente che è pronta a mettersi uno zaino in spalla e partire per 2 mesi senza sapere esattamente le destinazioni. Certo, poi ci sta anche tutta una parte che è quella un po' più cupa, che specialmente molto spesso è legata a un fenomeno che ci vorrebbe un altro film per raccontarlo, cioè la droga e il modo in cui quel movimento è stato in qualche maniera soffocato nell'eroina, e quindi tutta una parte anche dedicata ai traumi che questa cosa ci può aver creato e come nel corso della nostra età adulta li abbiamo superati. Facendo un paragone con l'oggi, cosa ne dici? Ma guarda, uno dei motivi per cui ritengo che questo documentario sia necessario, per quanto un film possa essere necessario, è proprio il paragone con l'oggi. Noi oggi, sotto tanti, tanti, tanti punti di vista, abbiamo fatto parecchi passi indietro. Tante cose che sono state conquistate da quei ciarlatani dei nostri genitori, in realtà erano conquiste importanti che noi ci siamo poi negli anni, nei decenni rimangiati. Il mondo era un mondo più ricco, più libero. Due ragazze potevano prendere da Bologna e partire in autostop fino all'India, attraversando Iran, Pakistan, Siria, tutti i posti che non sono assolutamente più attraversabili oggi. E infatti c'è anche una riflessione generazionale su un mondo un po' svuotato che queste persone, che se lo sono goduto moltissimo, poi alla fine hanno lasciato alle generazioni successive. E quindi c'è una riflessione, se vogliamo, anche un po' nostalgica di un mondo che piano piano, senza accorgercene, abbiamo limitato, abbiamo impoverito e crediamo di vivere in un mondo sicuramente più libero rispetto a 40 anni fa. Vedendo a diretto paragone le due realtà, è abbastanza chiaro che non è così. Che distribuzione gli stai dando? Che circuitazione hai scelto? Allora, il film è distribuito da Luce Cinecittà, è una circuitazione ovviamente diciamo di nicchia. Il documentario purtroppo in sala sappiamo che già va molto poco, questo è un piccolo documentario, quindi non c'è motivo di pensare che possa andare molto meglio, però comunque io lo accompagnerò veramente in maniera pedissequa durante una piccola tournée, e quindi dopo il 26 di maggio al Cinema L'Aquila parto subito, il 27 c'è Pistoia e Firenze, il 28 Bologna e Modena, il 29 Torino, Sant'Arcangelo di Romagna, poi Milano, Bergamo, Cagliari, Rimini, Livorno, Castiglione del Lago, centri dove c'è attenzione per questi temi. Ce ne sono sicuramente molti altri che purtroppo la distribuzione non è riuscita a raggiungere, ma insomma, dove c'è attenzione a questi temi, io andrò in sala a presentare il film e di solito quello che succede è una cosa secondo me positiva. Si sviluppano discussioni abbastanza accesi, perché chiaramente la loro generazione non accetta critiche. Quindi quando ci sono degli ex hippie in sala, e spesso ce ne sono, si sentono molto offesi dal nostro ritratto che abbiamo fatto della nostra infanzia. Però in fondo non credo che sia contestabile, così è come abbiamo noi vissuto la nostra infanzia, e loro non erano bambini all'epoca e quindi non possono che ascoltare quello che abbiamo noi da dire adesso. Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove trovarlo?